Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, benvenuti, buon inizio settimana. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio e saluto Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Allora partiamo. Hai la testa sul collo? Bene, parliamo proprio di lui. Giornata mondiale AIDS. Le cure funzionano, ma non bisogna abbassare la guardia. Storie che insegnano a guardare avanti. Si dice è una persona responsabile, ha la testa sul collo. A me ha sempre fatto un po' sorridere questo detto, perché dove può essere la testa se non sul collo? Voi di solito dove la tenete? Bene, lasciatela stare dove si trova e restate con me per parlare del suo piedistallo. Il collo è una struttura molto complessa, per questo ho chiesto aiuto a tre esperti diversi che ci aiuteranno a ispezionarlo da tre diverse angolature. Impareremo a osservare il nostro collo, a individuare piccole anomalie, tumefazioni, leggeri gonfiori. Ci aiuterà il professor Massimino D'Armiento, ordinario di endocrinologia all'Università La Sapienza di Roma e direttore del Centro delle Malattie della Tiroide al Policlinico Umberto I. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori, Nicoletta. Professore, allora, vogliamo andare subito davanti allo specchio? Certo, e davanti allo specchio diciamo subito che è molto più importante vedere sia allo specchio per una signora che non per un maschietto, perché le malattie della tiroide sono più frequenti nella donna. Quello che va osservato attentamente è se nel collo ci sono dei gonfiori, delle tumefazioni, dei bozzi, dei noduli, perché bisogna sapere che in condizioni normali la tiroide, che è l'organo principale del nostro collo, cioè l'organo che occupa più volume nel collo, in una persona normale la tiroide non si deve vedere, cioè il collo deve essere vuoto, sgonfio, tanto per capirci non deve essere come in quei quadri del Modigliani dove si vedono quei colli molto lunghi ma anche bombe allargati. Allora, quindi davanti allo specchio osservate, prendete spunto dalle indicazioni che ha dato il professor Massimino D'Armiento, che rimarrà con noi fino alle ore 12. Allora, adesso che abbiamo qualche indizio per osservarlo con l'occhio giusto, l'occhio clinico direi, procediamo, muoviamo la testa a destra, a sinistra, avanti e indietro e registriamo le sensazioni più o meno piacevoli che questo semplice movimento produce a livello del nostro collo. Se avete male, magari fate fatica, avvertite una certa rigidità, potete parlare di tutto questo e non solo con la dottoressa Elena Parolo, primaria di fisiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Dottoressa Parolo, mal di collo, torcicollo, colpo di frusta, chi non ha mai avuto un problema anche piccolo con il collo, c'è da dire scagli la prima pietra. Certo. Perché sono tante davvero i piccoli dolori che proviamo, proprio anche solamente muovendo la testa. Avvertiamo subito dei piccoli dolorini o questa sensazione di rigidità un po' dolente? Certo, le cause possono essere molteplici di dolore al collo. Tantissime persone soffrono di dolori al collo e queste cause possono essere di origine meccanica. Le cause più frequenti sono le forme traumatiche, il cosiddetto colpo di frusta, sì, l'artrosi, ernie discali e cause flogistiche che possono essere dovute a malattie più generali come l'artrite reumatoide, le spondiloartriti o la polimialgia reumatica. Oppure ci possono essere sindrome dolorosi di origine muscolare, che sono la sindrome fibromialgica e le sindrome miofasciali, che sono dovuti a dolori localizzati principalmente ai muscoli. Quindi, dottoressa Parola, i nostri ascoltatori, a cui ricordo il nostro numero verde che è 800 24 00 24, chiederemo, oltre che di descriverci il loro collo, quindi se avvertono delle tumefazioni, dei gonfiori, e li affideremo quindi al professor Massimino D'Armiento, dove avvertono esattamente il dolore, che tipo di dolore è, se è fisso, se si irradia, se lo proviamo solamente quando muoviamo il collo oppure quando stiamo fermi. Queste sono le indicazioni che le permettono di aiutarci a capirne di più, dottoressa? Se il dolore compare quando col movimento, se compare a riposo, se è irradiato alle braccia, se rimane fisso sul collo. Insomma, sono indicazioni che possono indirizzare una diagnosi precisa. E e potete naturalmente anche scriverci al 349-238-6666. Ma in linea con noi abbiamo anche un oculista e sembrerebbe, lo capisco, una scelta bizzarra, invece è motivata, perché tra occhi e collo, meglio tra posizione del collo e gli occhi, c'è una relazione molto stretta. Ce la spiegherà anche nel corso della trasmissione il professor Paolo Nucci, docente dell'Università di Milano e direttore dell'unità di oftalmologia all'ospedale San Paolo, autore di un importante articolo scientifico sull'American Journal che sottolinea appunto questa stretta relazione. Professor Nucci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a lei Nicoletta. Allora, ci spieghi perché lei, perché un oculista parlare di collo? Ma perché, come giustamente diceva lei, anche se in realtà l'articolo a cui lei ha fatto riferimento si riferisce alla popolazione pediatrica, esistono importanti relazioni tra le anomalie posturali e il problema degli occhi. Io sono in un ospedale dove adesso stanno facendo dei lavori, non so se voi mi sentite. Sì, bene. Sentiamo una specie di trapano sul, non so se è un trapano. Purtroppo succede. Le stavo dicendo che l'occhio ha una funzione molto importante nella posizione del soggetto, sì. Nel senso che proprio attraverso la posizione degli occhi non ci rendiamo conto in alcune situazioni se abbiamo la testa dritta oppure no. Sì. Insieme a questo intervengono anche altri fenomeni, lo spiegherà bene la fisiatra, certo ci sono i propriocettori del collo, esistono anche le orecchie che sono molto importanti, i liquidi che noi abbiamo dentro le orecchie. Ecco, quando c'è congruità tra questi tre elementi possiamo con tranquillità dire che il paziente dovrebbe avere la testa dritta. Molto spesso la testa invece è inclinata e ruotata per sopperire a delle mancanze di motilità degli occhi, cioè quando gli occhi non riescono a muoversi in maniera adeguata, il soggetto cosa fa? Ruota la testa per compensare l'assenza di questi movimenti particolari. Quindi si aiuta tenendo delle posizioni un po' particolari. Certo. Allora, voi raccogliete, mi raccomando, le idee, osservate il vostro collo, palpatelo, muovetelo, cercate soprattutto di descrivere con dovizia di particolari eventuali dolori. Pensate anche a come tenete il collo, se allora ad esempio assumete posizioni particolari, se questo problema lo osservate magari su vostro figlio o un vostro familiare, chiamateci 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Tra poco ci occuperemo della parte anteriore del collo, poi andremo ai lati e chiuderemo con la parte posteriore, quella che dalla nuca scende sino alle prime vertebre cervicali. Naturalmente, come sempre, questo percorso può avere delle fermate straordinarie, intermedie, cambiare completamente rotta. A deciderlo sarete come sempre voi con le vostre domande e i vostri interventi. Intanto i nostri esperti rimangono con noi sino alle ore 12 e quindi avremo modo di parlare per il lungo e per il largo del nostro collo. Una mela al giorno. Oggi, 1° dicembre, si celebra la giornata mondiale AIDS. È un'occasione questa per dire che tanto si è fatto, ma per ricordare che c'è ancora molta strada da percorrere, perché l'epidemia non accenna a fermarsi. Quindi, se è vietato abbassare la guardia, è importante però dire che grazie ai farmaci la qualità dell'esistenza delle persone infette è cambiata in meglio rispetto almeno a 10 anni fa. Ne parliamo con la professoressa Maria Rita Gismondo, che è tornata a trovarci. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Membro della Commissione Nazionale AIDS. Allora, professoressa, il tema di quest'anno riguarda l'accesso alle cure, perché purtroppo esistono ancora parti del mondo dove è difficile curarsi. Sicuramente è un problema economico ma anche culturale. L'AIDS ormai a livello internazionale è risaputo, non si sconfigge solamente con l'impiego di farmaci, ma l'arma più importante è la prevenzione. Lei sa che i retaggi culturali sono spesso la porta spalancata all'infezione, ma direi che l'accesso alle cure riguarda anche l'Italia, l'Europa, l'Occidente, nel senso che si sta molto discutendo sul fatto che minori, quindi fino a 18 anni, non si può richiedere un test se non accompagnato dal padre, dalla madre o comunque da chi ne fa le veci. Questo è veramente un handicap giuridico molto molto importante, perché ovviamente c'è l'imbarazzo del ragazzo se nel dire al padre o alla madre voglio farmi un test per l'AIDS, e questa è una cosa di cui si sta molto discutendo. Professoressa, lei in qualità di membro della Commissione Nazionale AIDS ci può dare un po' una fotografia della situazione in Italia, nel nostro paese? Sì, anche con qualche numero che può dare l'idea del fenomeno. Sì. Si valuta che purtroppo a fronte di circa 1200 persone sieropositive che si sono ammalate di AIDS nel 2007, perché ovviamente i dati vengono confermati con un anno di ritardo rispetto a quanto si attuano per ovviamente studi e validazioni. Ebbene, 1200 persone sieropositive ammalate di AIDS e altre 4000 persone si sono infettate con l'HIV, mentre si pensa che addirittura circa 40.000 sono le persone che sono sieropositive ma non ne hanno fatto una diagnosi, cioè quelle che hanno contratto il virus magari anni prima e che ne sono ancora inconsapevoli. È proprio questa la vera bomba biologica. Infatti in Italia oggi morire di AIDS è diventato un evento sempre più raro, però si muore delle malattie dovute agli effetti indesiderati degli antiretrovirali, cioè dei farmaci che tengono a bada il virus. Infatti non sapete bene che non si può parlare di cura, perché il virus purtroppo una volta che entra nel nostro organismo non riusciamo più ad eliminarlo definitivamente. E questo, questi sieropositivi che passano quasi del tutto inosservati sono i veri responsabili del perpetuarsi dell'epidemia. Quali sono secondo lei i modi per raggiungerlo? Campagne informative? Uno stretto un contatto, una relazione più stretta tra medico e paziente, un'informazione nelle scuole? Guardi, nel nostro paese purtroppo l'informazione sull'AIDS e su come prevenirla è stata sempre molto molto bassa e molto scarsa. Io dico sempre, noi tutti giriamo il mondo, quasi dappertutto arriviamo in aeroporto e accanto alla cartellonistica che ci fa vedere da che parte andare c'è un bel cartellone su come prevenire l'AIDS, che poi per chi ha deciso di avere rapporti sessuali è solamente l'uso del preservativo. In Italia, in Europa, ma in Italia soprattutto, la prevenzione è scarsa, tanto che ahimè i giovani sono quelli che maggiormente sottovalutano il rischio. Mi capita di parlare con ragazzi che per esempio confondono la sicurezza, cioè pensano che una persona non sia sieropositiva, quindi non possa dare infezione, solo perché una persona con uno stato sociale elevato, perché una persona benestante, laureata, pulita. Mi dicono: ma se una ragazza è pulita, studia, è benestante, può essere sieropositiva? Ebbene, purtroppo è quella la fascia oggi più a rischio, perché sappiamo benissimo che soprattutto con le cure che oggi abbiamo a disposizione, il paziente infettato da AIDS sta bene, purtroppo, dico non certamente in maniera cinica, purtroppo nel senso che sottovalutando il suo stato di possibile direi tra virgolette untore di persona che può contagiare altri, vive socialmente in maniera a volte spericolata, cioè senza comunicare la sua sieropositività ma senza neanche usare precauzioni per non infettare eventuali partner, e questo è veramente il rischio notevole. Grosso. Professore, professoressa Gismondo, per il futuro ogni tanto si sente parlare spesso di vaccino, a che punto siamo ed è giusto parlarne in che termini? Ma guardi, io sono solitamente un ottimista, lei lo sa, conosce precedenti interviste e mie opinioni, purtroppo non riesco ad esserlo così totalmente quando si parla di AIDS, perché il vaccino, se lo intendiamo come una sostanza che possa prevenire l'infezione, penso che sia molto difficile da attuarsi con gli strumenti che oggi abbiamo. Veda, è un virus che è molto più furbo ed abile del migliore degli scienziati a nostra disposizione, in quanto muta, cambia in continuazione, per cui se noi ci inventiamo una sorta di barriera, ecco, lui già cambia e quando la utilizziamo ci troviamo davanti a un virus diverso. All'interno dello stesso paziente, perché il paziente si infetta con un virus e questo virus dentro di lui cambia, tant'è vero che bisogna cambiare in continuazione la terapia e inseguire le sue mutazioni. Ci sono, molte volte si è parlato di vaccino vicino, ma poi le delusioni sono state tante quanti gli avvisi di nuovo vaccino imminente. Dobbiamo spezzare una lancia a favore della ricerca italiana, c'è il gruppo della Barbara Enzoli che fra l'altro è nella nostra commissione, che sta proponendo una sostanza che a rigor di termini non è un vero e proprio vaccino, è praticamente un intervento a virus già, ad infezione già contratta. non è ancora pronto, stanno lavorando intensamente. E certo, i vaccini sono speranze, però la prevenzione è certezza, per cui oggi dobbiamo solo diffondere la cultura della prevenzione, non certo la speranza che attendendo qualcosa accada. Professoressa Gismondo, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e un appello a tutti i giovani di informarsi, perché l'AIDS, se si conosce, non si contrae facilmente. Grazie ancora. Pronto soccorso. Eccoci, siamo tornati torniamo ad occuparci del nostro collo. Abbiamo tre specialisti in linea, un fisiatro, un endocrinologo, un oculista, ma già tante le chiamate al nostro numero verde 824 0024. Vincenzo ci chiama da Roma. Benvenuto e buongiorno. Buongiorno Nicoletta, anche ai suoi ospiti e a tutti i radioascoltatori. Io ho 37 anni, ho un'attività abbastanza sedentaria di vita, sì? Quindi sono alto 1,85 con un collo un pochino piccolino rispetto alla corporatura in genere e soffro molto spesso di episodi dolorosi a carico della regione cervicale con irradiamento poi sotto forma di cefalea, addirittura con dolore orbitale degli occhi. E questo pensavo inizialmente fosse dovuto a contratture eccetera eccetera, poi invece ho provato degli antinfiammatori che possono essere nimesulide o chetoprofene eccetera eccetera e ne ho notato dei giovamenti, quindi pensavo che fosse un processo infiammatorio che però sedato con i farmaci sembra cessare, poi torna prepotentemente in atto. Qual è il consiglio che i suoi specialisti possono offrire? Bene, Vincenzo, li metto subito al lavoro. Dottoressa Parolo e poi passiamo anche al professor Nucci. È un dolore abbastanza frequente che compare soprattutto al mattino, quello che descrive l'ascoltatore, che compare soprattutto al mattino, che è in genere dovuto, peggiora con le variazioni climatiche oppure con stress lavorativi, viene soprattutto in quei lavori che hanno delle posizioni obbligate e è accompagnato da questa rigidità mattutina con dolore che può irradiarsi. Sì. Alla nuca e l'ascoltatore dice anche a livello orbitario, perché sono interessate le articolazioni alte del collo C2 C3. L'ascoltatore dice che passa con degli antinfiammatori. L'antinfiammatorio fa passare sicuramente il dolore, sì, per cui il sintomo dolore, ma subito dopo l'effetto ritorna al dolore. Questo perché? Perché è dovuto, l'ascoltatore dice che lui ha un collo molto piccolo, per cui ha un deficit muscolare. Mm. Vuol dire che deve assolutamente fare ginnastica per rinforzare la muscolatura e nello stesso tempo allungare la muscolatura. In questo modo i muscoli fanno ben da supporto alle articolazioni e quindi al suo collo, e in questo modo può sopperire al dolore. Per le cervicalgie è importante non solo curare il sintomo, ma soprattutto prevenire. Certo, prevenire, venire e cercare di capire qual è esattamente la causa, perché certo, dottoressa Parolo, abbiamo capito che il collo è una struttura anatomicamente molto complessa. Molto complessa, certo. Professor Nucci, noi con lei vogliamo parlare naturalmente anche di occhi, malattie oculari, di questa relazione tra posizione del collo e i nostri occhi. Posso dire qualcosa anche del paziente? Bravo, e in questo lo volevo chiederla. Perché il nostro amico dice sento dei dolori oculari? Allora, sfatiamo un concetto. Il dolore oculare o il dolore orbitario è estremamente comune in tutte le forme di cefalalgia. Non rappresenta però un segno specifico di interessamento, di coinvolgimento oculare. Sì. Tenga conto che l'occhio in genere dà segno di sé e del fastidio in un modo solo, che è quello della sensazione di corpo estraneo. Quando noi abbiamo la sensazione di sabbia nell'occhio è probabile che ci sia qualcosa nell'occhio veramente. Sì. Quando il dolore è un dolore di questo tipo è probabile invece che si tratti di un dolore riferito, come diceva la fisiatra, cioè un dolore che arriva alla regione orbitaria ma soltanto perché è riferito. Molto spesso, per esempio, alcune algie della bocca che interessano il trigemino sono riferite in questo modo, pur non essendo coinvolto direttamente l'occhio. Quindi sfatiamo il concetto che ogni volta che c'è un dolore oculare si tratti di un problema oculare. Molto spesso l'occhio è soltanto il terreno dove si manifestano questi disturbi riferiti. Intanto volevo chiedere invece al professor Darmiento una risposta per un ascoltatore che ci ha mandato un SMS. A volte faccio fatica a deglutire la saliva e mi sembra di avere la tiroide gonfia. È possibile? Ci scrive: sono un fumatore. Professore. Sì, sicuramente è possibile, perché il nostro ascoltatore potrebbe avere un nodulo alla tiroide e lui dice che vede la ghiandola, cioè la parte anteriore del collo aumentata di volume, sì, e non riesce ad osservare, perché si può vedere solo con l'ecografia, se c'è un nodulo sottostante a questo aumento diffuso della tiroide che può andare a comprimere l'inizio dell'esofago, che è proprio a contatto con la tiroide, e quindi ogni volta che deglutisce la parte superiore, l'orifizio superiore dell'esofago ha difficoltà ad aprirsi, a far passare il cibo. Quindi consiglierei di farsi vedere da un endocrinologo e fare sicuramente un'ecografia che può documentare questa compressione. Ecco, ci siamo tornati, oggi parliamo di collo, dolori al collo, tumefazioni e gonfiori al collo, oppure posizioni scorrette del nostro collo. 824 0024, tre specialisti a vostra disposizione, ma apriamo una piccola parentesi, parliamo di meningite. In Italia ogni anno vengono registrati circa 900 casi di meningite, di questi circa un terzo sono causati dal meningococco C. Secondo una ricerca di GFK Peurisco, tutte le mamme italiane hanno sentito parlare di meningite batterica, sanno che è una malattia grave e nel 65% si sentono preoccupate per il rischio del contagio. L'85% è addirittura a conoscenza della disponibilità di un vaccino che può prevenirla, eppure solo il 48% di loro ha vaccinato i propri figli. Come mai? Giro questa domanda al professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Come mai allora? Ma direi che le mamme italiane sono combattute, appunto da una parte sanno che la meningite è una malattia grave, dall'altra parte sanno che c'è un vaccino, però come nei confronti di tutti quanti i vaccini raccomandati, cioè quelli che non sono obbligatori, sono un po' riluttanti a farlo. Non è colpa loro, è colpa dei servizi che non offrono attivamente questa vaccinazione che viene praticata a tutti quanti i nuovi nati, a gran parte dei giovani, praticamente in tutti i grandi paesi del mondo. Quindi, professore, dato che è una malattia grave, il vaccino esiste, lei in qualità di medico che cosa si sente di consigliare e perché? Ci potrebbero essere anche dei rischi? Potrebbero essere la paura dei rischi a trattenere le mamme? Beh, sicuramente quello, le mamme sono appunto esitano a fare un vaccino perché ci sono moltissime anche opinioni in proposito, ovviamente sono opinioni non scientificamente suffragate, che i vaccini possono rappresentare invece che un elemento di protezione un elemento di rischio. Nello specifico la vaccinazione contro la meningite di tipo C è stata praticata in milioni di dosi in tutto il mondo e questo ha consentito per esempio in paesi vicini come la Gran Bretagna o la Francia praticamente di azzerare il numero di morti. Io quindi consiglierei alle mamme ovviamente di vaccinare tranquillamente i propri figli, ma soprattutto quello che raccomanderei è alle aziende sanitarie locali, ai dipartimenti di prevenzione, ai servizi di igiene e sanità pubblica di offrirlo attivamente e di offrirlo quanto più possibile gratuitamente. Questo purtroppo si verifica soltanto in una minima parte delle regioni italiane. Professor Ricciardi, io la ringrazio, la saluto, le auguro una buona giornata. Grazie e buon lavoro anche a voi. E torniamo ad occuparci del nostro collo. Professor Nucci, con lei vogliamo parlare delle posizioni un po' viziate che a volte assumiamo proprio magari leggendo, guardando la TV oppure guardando, lavorando al terminale. Quali sono le posizioni del collo che potrebbero farci sospettare che ci sia un interessamento dei nostri occhi? Ma c'è una manovra estremamente semplice che io consiglio di fare non solo nel bambino ma anche nell'adulto. Sì. Quando un paziente, presenta una posizione anomala del capo, provare ad osservare gli occhi quando la testa si mette dalla parte opposta, cioè se io inclino abitualmente la testa sulla spalla di destra, provare a posizionare la testa sulla spalla di sinistra ed osservare come si comportano gli occhi. Molto spesso noi sveliamo delle asimmetrie di posizione. Queste asimmetrie di posizione sono indice che il paziente assume quella posizione proprio per compensare un movimento che non riesce a fare. A questo proposito mi lasci dire solo una cosa, una piccola preghiera. E la piccola preghiera va ai fisioterapisti più che ai fisiatri, che sono ben consci del fatto che gli occhi siano importanti. Prima di iniziare ogni terapia riabilitativa, soprattutto in età pediatrica, accertiamoci che il problema non sia oculare, perché se il paziente assume una posizione per avere una buona visione binoculare, nel momento in cui lo costringiamo ad assumere una posizione normale, molto probabilmente stiamo compromettendo la visione dei due occhi. Questo è fondamentale, ripeto, i fisiatri sono molto più attenti, a volte però i fisioterapisti magari sono competentissimi, io ne ho uno che lavora con me, ma sono competenti, ma tante volte trascurano la possibilità che il problema sia oculare. Se vuole sapere quali sono i problemi oculari, molto più numerosi di quelli che si pensa. Ce n'è uno in particolare che è il nistagmo, cioè un movimento incontrollato degli occhi in cui gli occhi non riescono a mantenere la fissazione, e il paziente assume una posizione viziata proprio per bloccare questo movimento. Un altro estremamente comune è il deficit del grande obliquo, è un movimento, è un muscolo che fa un movimento particolare, cioè fa torcere l'occhio. Allora, quando questo muscolo non funziona, noi incliniamo il capo per evitare di vedere doppio, di vedere sdoppiato. Ma basti pensare anche ai banali astigmatismi, le ambliopie, cioè chi ha un occhio pigro, chi ha un occhio pigro spesso tende a proporre di più l'occhio che funziona meglio, quindi a ruotare il capo nella direzione dell'occhio che fissa. Quindi, come vede, sono un'infinità. Professore, possiamo rispondere a Mario? Ci scrive: mio figlio, quando fa i compiti, non guarda il foglio dritto, ma di lato, sia quando legge che quando scrive. Tiene il collo storto, ha 10 anni. Ma questo, a volte, spesso queste posizioni sono dei vezzi che i bambini assumono, soprattutto per la scrittura. Sì. Come se si concentrassero un po' di più. Il bambino, lei sa che lavora molto da vicino e non patisce come me, che ho quasi 50 anni nella lettura. Però il bambino tende ad avvicinarsi perché, come gratificato da questo sforzo accomodativo. In realtà la manovra è sempre la stessa, basta provare a mettere il bambino nella posizione opposta e vedere se gli occhi rimangono allineati oppure se non compare qualche movimento incongruo. Andiamo a Verona, ci chiama Michele, 800 24 00 24. Michele, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, io sono Michele, mi chiamo da Verona. Può dire di avere la testa sul collo lei, Michele? Esatto. Ok, sì. Allora va bene, vada pure con la sua domanda. Allora, io 2 anni fa circa ho avuto praticamente, cioè no, ho avuto, ce l'ho ancora in effetti, un rigonfiamento sotto la mandibola attaccato al collo. Sì. E ho fatto un controllo, un'ecografia seguita da un ago aspirato. E mi hanno riscontrato una infiammazione a una ghiandola salivare. Sì. In più mi hanno anche trovato dei piccoli noduli. Poi dopo hanno fatto l'esame per vedere se erano benigni. Era tutto a posto, erano benigni, tutto quanto. Mi ha detto di non preoccuparmi, però questo rigonfiamento, fatto sta che dopo 2 anni questo rigonfiamento non si è rigonfiato, ne è aumentato, è rimasto lì fermo, non è andato via. È andato via e volevo sapere un attimo se mi devo preoccupare oppure no. Professor Darmiento, si deve preoccupare Michele? No, si deve soltanto occupare della situazione. Che mi piace di più. Sì, perché rientra nell'ambito questa patologia di Michele, dei noduli tiroidei, che sono frequentissimi nella popolazione. Pensi che oggi noi parliamo di epidemia dei noduli tiroidei, perché una persona su due, specialmente nel sesso femminile, ma il signor Michele smentisce questa statistica, come sempre succede, una persona su due alberga un nodulo della tiroide. Ma quello che va sottolineato, e vanno tranquillizzati i nostri radioascoltatori e specialmente le radioascoltatrici, è che in oltre il 90% dei casi questi noduli sono assolutamente benigni e si dimostra la loro benignità con l'ago aspirato che ha fatto anche il nostro radioascoltatore. Sì. Quindi quello che deve fare è stare tranquillo, il nodulo non scomparirà, specialmente perché è un nodulo di vecchia data, se ne è accorto troppo tardi, ma la benignità della lesione è assicurata. E a giudizio dell'endocrinologo si può fare anche qualche trattamento per cercare di non far aumentare di volume questo nodulo, ma massima tranquillità. E andiamo a Foggia, ci aspetta Mario, 800 24 00 24. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei di chi ha bisogno, Mario, per il suo collo? Dell'oculista, di un endocrinologo o della dottoressa Parola, quindi di un fisiatra? Riguarda i vediamo. Dolori al collo con un inserimento per quanto riguarda la vista. Sì, Mario, scusi, deve abbassare la radio, mi sta dicendo Giorgio Matè. Quindi ha dolore al collo e quindi l'affidiamo alla dottoressa Parola, però... Per quanto riguarda, io ho avuto un trauma cranico, un incidente stradale a marzo. Sì. Da questo incidente è venuto fuori un trauma cranico, diciamo le ernie cervicali e subluxazione delle spalle con periartrite. Di conseguenza poi ho avuto pure dei disturbi da lì a breve per quanto riguarda la vista. Ho dovuto mettere gli occhiali da vista. Sul certificato c'era scritto astenotipia accomodativa post-traumatica. Che significa... E poi le ernie C5 e C6, io ho della sensazione di sabbia al collo con scrosci e con un senso di incastro delle ossa al collo. Sì. Qui ho, ripeto, ernie cervicali C5 e C6 più una protusione. Va bene. Mi hanno fatto detto di fare della ottima postura, come fisico non sono decadente, ma diciamo mi piace, come sono abbastanza compatto. Senta, la affida alla dottoressa Parolo. Dottoressa, credo che abbia avuto un colpo di frusta con una serie che di conseguenze. Di conseguenze conseguenti al colpo di frusta. Il colpo di frusta è un trauma cervicale che è dovuto a una reazione da iperestensione del capo durante la fase di accelerazione. Sì. Le strutture coinvolte possono essere le strutture legamentose, i dischi intervertebrali e le articolazioni. Sì. Credo che il radioascoltatore abbia avuto tutte le strutture. Non si è fatto mancare nulla. Niente. Ha sicuramente portato il collare che è servito soprattutto per detendere e rilassare la muscolatura, che necessariamente dopo un colpo di frusta è ipercontratta. Certo. Per uscire da questa situazione potrebbe in qualche modo fare della ginnastica, della riabilitazione? Come sollevarsi da questo grande fastidio? Lui ha anche un'ernia cervicale, mi sembra C5-C6, che sembra dovuto al trauma cervicale. In questo caso, per evitare un peggioramento, sì, perché l'ernia c'è e rimane lì, è proprio necessario rinforzare la muscolatura cervicale che serve da supporto alle strutture legamentose e ossee e fisioterapia associata anche delle terapie fisiche, per esempio delle trazioni che servono per distanziare le vertebre, quindi detendere la compressione sul disco. Certo. Ginnastica sicuramente, ginnastica di allungamento tipo nuoto dorso o i metodi che ci sono di gran moda in questo periodo. Che sono tipo Pilates, che servono proprio per allungare la muscolatura. Guardi, già la parola ci fa stare meglio. Eccoci di nuovo insieme. Professor D'Armiento, Bianca Maria ci scrive: ho seguito alla lettera le indicazioni del vostro esperto e mi sono ritrovata con una parte del collo più gonfia, grande come un'albicocca, forse sarà la tiroide, e delle ghiandole un po' ingrossate. Che cosa devo fare? Allora, professor D'Armiento, si vede che i suoi consigli sono stati molto chiari. Mi immagino già la nostra ascoltatrice Bianca Maria che, come me, intanto che lei parlava, provava, io non posso guardarmelo perché sono in onda, ma a palparsi il collo. Parliamo anche di esami da fare, se si sono suggeriti e in quali casi. Certo, l'esame principale è sempre la visita dallo specialista che, attraverso la ispezione e la palpazione, i metodi classici della medicina, inquadra che tipo di tubefazione è. Subito dopo si passa alla ecografia e dopo, sempre su giudizio dell'endocrinologo, si può passare all'ago aspirato, che è il gold standard, cioè ci fa vedere le cellule che sono in quel nodulo e si vede se le cellule sono benigne, buone, come ripeto nell'oltre il 90% dei casi, o sono delle cellule maligne. Riguardo ai linfonodi che sono ai lati del collo, vanno sempre evidenziati anche questi, o vedendosi allo specchio se il linfonodo è molto aumentato di volume, oppure toccando giocandosi con l'autopalpazione. La coesistenza da una stessa parte di una lesione nodulare della tiroide e di un linfonodo può far pensare a due cose. Primo, a una infiammazione della tiroide, perché la tiroide va incontro a infiammazioni come tutti gli altri organi, certo, come le nostre tonsille, eccetera. E si parla quindi di tiroidite. In genere, in queste tiroiditi, oltre al nodulo, alla tumefazione, il soggetto accusa sia dolore quando si tocca e sia dolorabilità. E questi linfonodi a loro volta possono essere dolenti anche loro, ma anche in questo caso assoluta tranquillità, perché nella stragrande maggioranza dei casi i linfonodi laterocervicali sono un'espressione di banali malattie infettive, come un'influenza, un mal di gola, una mononucleosi infettiva, un toxoplasma, se un mal di denti. Anche mal dei denti, quindi sì, in genere sono situazioni banali. Se invece l'endocrinologo riscontra dei caratteri particolari di questo nodulo ecografici, che sono dei caratteri a rischio, allora si può arrivare anche all'ago aspirato del linfonodo. Questi sono casi rarissimi, ripeto, di tumori della tiroide che metastatizzano subito ai linfonodi della stessa parte, cioè omolaterali. Però per la nostra ascoltatrice, che non ha dolore, che non ha fastidi particolari, penso che si tratti di un nodulo tranquillo e i linfonodi sono espressione soltanto di una di queste semplici malattie, infezioni delle vie aeree o dei denti, come si diceva in precedenza. Mi lasci, se possibile, sì, dire una cosa molto importante. Io vi lascio, certo che vi lascio. Che unisce l'endocrinologo all'oculista, cioè quello della coesistenza di un aumento diffuso della tiroide, quindi non parliamo più di nodulo, ma di aumento diffuso della tiroide con gravi alterazioni oculari, cioè l'esoftalmo, cioè con l'occhio in fuori. Questo binomio, cioè tumefazione della tiroide visibile al collo, occhi in fuori più tutta una sintomatologia di ipertiroidismo, punta dritto verso la diagnosi di malattia di base, dopo che è una grave forma di ipertiroidismo. Grazie professor D'Armiento. Un dettaglio in più che è fondamentale per capire meglio la nostra situazione. Dottoressa Parolo, facendo proprio un distinguo un po' grossolano, ma per capire un pochino quale parte del nostro collo, se quale struttura del nostro collo è interessato, un dolore che di notte sparisce, ma come il caso di Carlo, di giorno riprende e cammina fino a provocargli anche mal di testa, che struttura del collo può interessare? Quali sono gli esami per arrivare ad una diagnosi? Credo che l'essenziale sia l'esame obiettivo fatto da uno specialista che evidenzia se ci sono deficit articolari, cioè se muovendo il collo ho delle limitazioni, facendo muovere il collo al paziente ho delle limitazioni. Se così non fosse, sono interessate sicuramente le suture muscolari, ci può essere una contrattura o che può essere acuta o cronica, sì, diciamo cronica perché dura nel tempo. Ma se non sono interessate il movimento e il range di movimento è normale, diciamo che non sono interessate le strutture articolari. In questo caso non ci sono esami da fare perché le radiografie mettono in evidenza soltanto la parte ossea, ma è necessario soltanto un'igiene di vita che può essere uno sport, evitare cambiamenti rapidi di temperatura, condizionatori, la macchina, il finestrino aperto e cercare di fare delle docce calde per rilassare la muscolatura. Sì, per prenderci un po' cura di questo collo. Andiamo a Viterbo, ci aspetta Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno Nicoletta, in saluto a tutti i suoi ospiti. Molto brevemente, io soffro di cervicale e credo anche di avere una contrattura abbastanza cronica. Volevo sapere se le cure termali e i massaggi possono aiutare a guarire da questo. Sì, poi guardi, con questo freddo verrebbe proprio voglia. Dottoressa Parolo, Vincenzo, certo. Cure termali, massaggi. Le cure termali vanno benissimo, soprattutto quelle col caldo, i bagni caldi, fanghi, vanno benissimo se non ci sono controindicazioni generali che. Sì. Questo lo decide il medico delle terme. I massaggi vanno benissimo perché operano questa decontrattura, e tutte le terapie col calore, tipo radar terapia, laser terapia, che hanno proprio lo scopo di decontrarre la muscolatura. Alfredo ci chiama da Padova, 824-0024. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi specialisti. Alfredo, una domanda rapida, perché siamo quasi in chiusura. Sì. Grazie. Sì, no, ma credo che in parte mi abbia già risposto, perché come dicevo prima, mio figlio è stato operato, diciamo, a un anno di strabismo, cose di questo tipo. Però oggi, che ne ha 14... Mm? Praticamente ha assunto una postura dove il suo collo praticamente tende sempre verso sinistra. Sì. E il posturologo mi diceva: guarda che praticamente è lui, cioè la vista in tutti i modi ha cercato di difendersi proprio per fargli vedere il meglio possibile, quindi ha assunto questo tipo di posizione. Certo. E non conviene, diciamo, risistemargli bene o male la postura, perché potrebbe poi avere problemi di vista. Allora, visto che abbiamo il professor Nucci, chiediamo a lui. Grazie. Professore, 30 secondi per dare una risposta ad Alfredo. Mi sembra molto ragionevole quello che è stato suggerito, cioè non andiamo a turbare un equilibrio che si è creato. 30 secondi, ne uso 10 soltanto per confermare quello che diceva il professor Darmiento, ed anche segnalare che magari l'esoftalmo, che viene fuori nella malattia di Basedow, è un segno importante, ma il primo segno in assoluto è la retrazione della palpebra superiore. Cioè noi ci accorgiamo di queste malattie della tiroide, di questa in particolare, perché la palpebra tende a rimanere un po' più su rispetto all'altra. È un segno molto importante. Grazie allora ai miei ospiti, grazie alla dottoressa Parolo, al professor Nucci, al professor Darmiento. Abbiamo cercato di darvi tutte le informazioni possibili, ma il collo è così complesso che torneremo di nuovo a parlarne. I nostri esperti ritorneranno? Tornerete a trovarci? E come no? Certo. Va bene. Allora, questo mi piace molto. Noi ci risentiremo presto per una nuova puntata sul collo. Un saluto a voi, un saluto ai nostri amici da casa che ci hanno ascoltato, seguito, aiutato con le loro domande, e a loro do un appuntamento speciale domani dopo il GR delle 11. Intanto buon lunedì da Nicoletta Carbone.